elimino, praticamente glielo lascio perché ce l'ho brutto senza tazzino, però dentro le stacco i due fili e glielo metto diretto al circuito di preamplificazione, così rimane sempre in preamplificazione, capito? Perché difetta quel cazzo di commutatore che c'ha sotto, capito? Si blocca e non fa passare la tensione per alimentare il circuito di preamplificazione. Sì, le trovi quelle batterie lì, sono rotonde da 3 volts, gliela puoi cambiare. No, io mi ci ho acceso anche adesso il 757 GX2 Cat System, nuovo, bellissimo. L'ho fatto tutto revisionare l'anno scorso, però lo uso pochissimo, capito? Infatti c'è collegato l'MD100 della IAESU, però lo uso pochissimo, no, non mi interessa. Uso sempre o questa o il K e basta. Va bene, dai, io passo il cambio a Roberto, fai girare, ascolti finale, poi chiudo che vado a cenare, che c'ho fame. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Rubi e chiunque è in ascolto sul canale 10, mi sembra aver sentito anche Natalia. Riprendi tu Roberto, un abbraccio a tutti e buona cena a tutti. E anche a poco vado, buon tutto Claudio, buona cena, saluto a tutti in casa e già ci sentiamo quando vuoi, già sai dove trovarmi. Vai Muros e poi Gianni e Natalia, saluto a Natalia che non l'ho salutato, ho sentito solo l'ululato di poco fa. Vai anzi, prima Natalino, dai, che è l'ultimo arrivato, vai Natalino. Vabbè Claudio, buon proseguimento, buona cena, dai. Avanti Gianni. Ehi, ciao Natalino, ciao anche a Claudio che sta andando via, buona carica quando la fai, dai. Avanti Natalino, in giro io. Stavo studiando, domani devo andare al corso. Salutoni anche a Roberto, un abbraccio. C'era anche Claudio Di Muros. Avanti Roberto, fai venire avanti a Claudio. Aspetta, facciamo salutare a Claudio Di Muros o a Claudio Di Sassari. No, mi ero spostato in cucina, mi ero spostato, stavo portando cosa, l'ho fatto rilanciare per salutare a Claudio, non so cosa fosse aver detto, anche perché io a Claudio l'ascolto basso qua in AM. Ma l'ascolto, aspetta, lo rilancio a Muros, Claudio Di Muros, avanti. Stavo dicendo qualcosa, Claudio, ma mi sono dimenticato, vabbè dopo non mi viene in mente, vai Gianni. Eccomi qua, beh io adesso vi saluto, dai, che sto andando a preparare da mangiare, poi mi devono arrivare le pizze fra poco, dai. Quindi vi saluto e ho in mente la roba da mangiare, dai adesso, c'ho fame. Buona serata a tutti, buona continuazione del QSO, mi ha fatto piacere modulare con voi. A domani, ci sentiamo, ciao! Ok, riprendo, ciao Gianni, ben sentito, ci sentiamo prossimamente, dai. Vai Natalino. Ciao Gianni, ben sentito, ne approfitto per chiudere anch'io qua, salutando tutti, Roberto, Claudio e chi fosse in ascolto eventualmente, là. Ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ciao anche a te Natalino, buona cena, se vi parlo ancora io qualche minuto e vado anche io, vai Claudio. Ti stavo dicendo qualcosa riguardo alla radio, mi è passato di mente, quello che avevi prima l'FT1000 era il 200 watt, quello che avevi tu. L'amplificatore d'antenna tienilo sempre inserito, perché quando c'è se il Natalino basso con quello lì inserito lo ricevi meglio, un po' più forte, e a sempre tenerli inseriti. Quando c'è problemi di segnali troppo forti, saturi, a quel punto usi l'attenuatore o togli l'amplificatore d'antenna. Tienilo sempre inserito, male non li fa sicuramente. Ok, l'FT 1200 watt è una bestia di radio, è più grande anche del 940, il 940 lo stesso c'è un alimentatore dentro contenuto, e anche il 950 se non sbaglio, confermi? Milione si chiama, non mille. Cabina elettrica che mi hanno condannato a morte perché dice che lui ha provato il ratto con le direttive, ma il fulmine me l'ha bruciato, il Milione si chiama quello, il Mille, però lo chiamano il Milione perché è talmente grande che è un barrasone versione 200 watt, quello è il 1000D, quello che stai dicendo tu è il 1000MP che c'ha, lo smitter non è digitale ma è a LED. L'MP è quello con l'indicatore a barre fluorescenti, diciamo, molto più carino, più elegante, una cartella diversa di come disposizione, probabilmente le radio sono identiche, forse hanno fatto qualche aggiornamento di software, però sono belle, tutte e due, bellissime radio, tanto di cappello, Claudio che le ha avute ce l'ho potrà dire più di me, però ne ho sempre sentito parlare bene. Bellissima radio, ok, 950 è l'evoluzione del 940, c'ha le stesse cose, se tu le confronti davanti sono le stesse radio, solo che avere l'indicatore ad ago ce le ha a barre fluorescenti, però più o meno le radio sono molto molto simili, hanno messo nell'ultima versione Dixie di DSP, per un primo esempio di DSP un po' meglio per i segnali deboli, ma come modulatori ci assomigliavano tantissimo, come 930-940 erano radio abbastanza simili come tipologie. Bellissima radio e tanto di cappello. Non le ho mai avuto, 950, cioè 940, e da chi ce l'ha ne ha sempre parlato bene. Da parte mia posso dire che come ricevitore è eccezionale, c'ha una modulazione da paura. Appena attacco 940 tutti mi fanno i complimenti, dicono bellissima modulazione, complimenti, mi dicono che radio è, e tutti che quando sento 940, sì sì l'ho avuto anche io, ma sono pentito amaramente. Purtroppo è una radio che c'è 6 anni e con i difetti che piano piano ne escono, i famosi puntini, anche a me ogni tanto escono, però dovevo mandarlo in assistenza, vediamo un pochettino. Di nuovo a te Claudio, dai, lasciamo un secondino di bianco, senza qualcuno, se no riprendi tu, avanti su 10 vuole entrare, niente, vai Claudio. Giro dalle cose, di stare sempre a comprare una facendo, alla fine poi è un circolo vizioso. Io mi sono fermato al 3000 e basta, poi vediamo, poi magari col tempo si vedrà più avanti. Per il momento una radio, ti hai presente, l'ho usata forse un paio di volte, perché sto utilizzando il TS2000 perché devo abbinare delle cose, lo voglio mettere col microfono, c'ho l'MD100, non l'ho acquistato l'altro giorno, però voglio metterlo con la giraffa, c'ho già pronte le giraffe, ecco, con un mando a pedale, così libero un po' la scrivania, perché ho troppi microfoni, anzi ho dovuto togliere qualcuno, ho 4 microfoni per 4 radio, anzi devo dire, il 940 in questo momento non c'è. c'ha neanche il microfono collegato, perché l'MC85 l'ho tolto, anche l'MC50, cioè il TS2000 con l'MC60, il 440 con l'MC60, l'FT3000 con l'MD100 e l'Adonis sul il 701 della Kenwood. Mi manca adesso in questo momento il 940, però c'ho il microfono, due giraffe per attaccare il microfono e così mi rompo la scrivania. Ok, io carissimo Claudio ti devo lasciare perché si è fatta ora di mangiare, c'ho anche un po' di fame. Se coincide male, se ci sentiamo più tardi, se no ci sentiamo in altre situazioni. Ok, saluto anche gli eventuali amici qua in ascolto sul canale 10. Ti saluto a tutti in casa, se devi fare la cena, buona cena, ciao, cuoriti da parte mia, ciao ciao.